Luponer Summersburgo. Bentrovati a un nuovo episodio di Luponer Summersburgo, la versione estiva di Luponer, il programma radio che trasmette su Radio R, ma in questo caso dal salotto di casa mia con la voce di Vanni e Flamì, che vi è stato salutato all'inizio. Allora, questo è l'episodio numero 8 della seconda stagione di Luponer Summersburgo e abbiamo ascoltato per iniziare Resting Sad Face con il brano Mein Hammer des Herz. È un artista di una scena nuova chiamata Neue Deutsche Welle, nuova new wave, diciamo, tedesca, da Berlino, infatti c'è Mania. Questa ragazzetta non ha fatto nemmeno un album, però mi è capitato già di vederla dal vivo e ho detto vabbè, e l'ascoltiamo pure noi. Era questa qua. Adesso passiamo a un livello un po' più violento di trasmissioni musicali con il death metal dei Last Wretch dal Canada, Ontario, Canada. parlano di violenza, stregoneria, cannibalismo, le cose tipicamente di agostane dell'Adriatico. E dal loro secondo album Abject Cruelty, uscito poco fa, ascoltiamo il brano Abject Cruelty. Let's Wretch! Которую капитализму не дал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, piazza e nadie licenciati e capitalisti per gli sbagati. Queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Patria o muerte. FF bis St. Petersburg. Bei mir kriegst du besten Beta-Kurs aus ner Gorbatschow wird ne Molotow aus ne Bullenauto ein Haufen Schrott. Bullen Schweine raus aus unserer Gegend. Hier herrscht Anarchie, Spuck auf eure Regeln. Siamo tutti antifaschisti. Ganzer Block ist auf Regenjacke, Schirme hoch gegen Tränengasse. Riechst du den Dampf der Pyrotechnik, nieder mit euren Führungsketten. Da hab Flex, kommt wie Mao und Stalin. Kult ist dann Herbie, sie haut den Nazi. Alle zusammen auf die Barrikaden, Widerstand hält die roten Fahnen. Ah, Anti, Antikapitalista. Ah, Anti, Antikapitalista. Ah, Anti, Antikapitalista. Ah, Anti, Antikapitalista. Schwarz maskiert wie die Antifa und der Weg zum Frieden ist radikal. Kurdistan, Anarchie-Partisan, chill im schwarzen Block, nicht in Zanzibar. Jedes Bullenschwein ist ne Missgeburt, hauen im rechten aufs Maul auf die linke Tour. Klassenkampf, Sad Hill, dann Intifada. Free Kongo, Free Kurdistan und Free Gaza. Antifaschista auf jeder Sprache, Molotovs als Antwort auf Tränengase. Fick die USA, fick die Emiraten, Bullenwagen versperren wieder jede Straße. Steine fliegen, Helme krachen, Barrikaden, Straßenschlachten. Wir tanzen im Nebel der Repression. One Solution, Revolution. Ah, Anti, Antikapitalista. Ah, Anti, Antikapitalista. Ah, Anti, Antikapitalista. Ah, Anti, Antikapitalista. Ah, Anti, Antikapitalista. Ah, Anti, Antikapitalista. Ah, Anti, Antikapitalista. Ah, Anti, Antikapitalista. Oh, questa militanza arriva da Hubflex, che è anche lui da Germania, da Lipsia per esattezza, a metà strada tra attività di strada, attivismo politico e rap, così si dichiara. Viene chiaramente dalle terre dei giaggianesi, però non sappiamo esattamente dalla località. Comunque sostiene la Palestina libera, sostiene il Rojava libero, sostiene l'antifascismo e l'anticapitalismo, quindi parliamone, deve essere sicuramente simpatico. Da Flex, il brano che abbiamo ascoltato era Rot, Roscio. E Roscio pure Johnson Rigueira. Ho scoperto che, da poco, che insomma sostiene il Partito Comunista di Rizzo, in realtà rosso bruno, rosso vero proprio. Ne dovremmo parlarne con Johnson Rigueira per aiutarlo a smettere. Comunque sia, Johnson Rigueira, sopravvissuto dai Rigueira storici degli anni Ottanta, tuttora in attività, ha pubblicato da pochissimo un brano nuovo che si intitola Chi troppo lavora non fa l'amore. Lamenta che per i contenuti filofancazzisti del brano venga boicottato dalle radio mainstream, per cui tocca a noi Johnson Rigueira, Chi troppo lavora non fa l'amore. Mi sveglio in un sogno, in un mondo senza orari. Oh, oh, oh. Io scappo ma poi torno senza pagare il conto. Fa l'amore, io sto meglio se non corro. sforzo. Sotto gli occhiali da sole dormo. Non fa l'amore chi lavora troppo. Dammi un bacio sulla fronte. Merspurgo. Oh. Tutta questa letizia estiva andava per forza smorzata con gli Ataraxia, una band tra neo folk e dark wave da Modena. Si oscillano tra vari scenari medievali, rinascimentali, mediamente neoclassici. Dopo innumerevoli album ne hanno pubblicato un altro l'anno scorso, l'ultimo del maggio del 2024, tuttavia è relativamente nuovo, si chiama Centaurea, e da quest'album abbiamo ascoltato il brano Nox Incubat. Ora sempre serietà, ma in un'altra modalità, diciamo meno così rivolta al passato, più verso la modernità, con Gianluca Natanti, che è un terrorista sonoro osimano, residente a Roma da un po' di tempo, ma non dimentichiamo i marchigiani, con trascorsi nei Discipline, nelle Fistole Anali, le Mistone e altre robe che davano fastidio ai vicini, ha da poco pubblicato un album a suo nome, proprio nome e cognome, Gianluca Natanti, che si chiama Sei Indagini Impossibili. Da questo album ascoltiamo un branetto che si chiama Asincronicità. Gianluca Natanti. Lupo Nero, Summerspurgo. Avete sentito la brezza della Polonia? Da Poznan, Polonia, appunto, il black metal dei Martwa Aura. Morte, meditazioni, manifestazione, questi temi più cari a questi Martwa Aura, e dal loro terzo album, Lament, uscito pochissimo fa, abbiamo ascoltato il brano Lament Zwarty, che boh, sarà l'evento quarto, forse l'evento quarto, perché io sa, il polacco non lo mastico, nemmeno lo svedese, però gli svedesi Twice a Man almeno parlano, cantano in inglese. Dopo anni, questa è una band di synth pop che esiste dal secolo scorso, dai primi anni 80, all'inizio si chiamavano addirittura Cosmic Overdose, poi ho detto no, chiamiamoci Twice a Man, è servito a qualcosa? Ovviamente no. Bene, comunque sia, loro sono ancora in attività, sorprendentemente, dopo anni e anni di fiacca, sono tornati con un album nuovo intitolato The Colored Breeze is a New Dimension. Hai capito? E niente, ci ascoltiamo il brano Floating Ashore, Twice a Man. In a dream of desire. Lupo Nair, Summersburgo. Autodistruttivo, così si autodefiniscono i Megan Is Missing da Napoli, che da poco hanno pubblicato un EP intitolato Depression is a Fashion, la depressione è una moda, dicene, da cui abbiamo ascoltato il brano Strasberg, Megan Is Missing. Ora cambiamo sonorità, arriviamo al nuovo album dei VNV Nation, Victory Not Vengeance Nation, una band composta da due elementi fondamentalmente, uno irlandese e l'altro inglese, che adesso sono tutti e due tedeschi perché vivono ad Amburgo. Volevano pubblicare un album doppio intitolato Construct Destruct, esattamente come un album di Suicide Commando del 2000, anche prima, del 98, però famo finta di niente. Comunque, fatto sta che per altri motivi, forse perché si sono accorti che esisteva questo disco, li faranno uscire separati. Quindi il primo è uscito adesso, si chiama Construct Destruct, arriverà prima o poi. Da questo Construct, che il suono è sempre quello, electropop, synthpop, future pop, vagamente ispirato dall'electronic body music, ascoltiamo il brano By Your Side, che forse è il più radiofonico, strano, il più radiofonico dei VNV Nation, By Your Side, almeno per questo disco. Tensions race, emotions tamed, a kiss, a promise, all to gain, tears or joy, endurance. Pressure mounts, shatter, break, penance made for our mistakes. Knives are out till blood

scopro che in Veneto non se la passano per niente bene, tant'è che c'è questo Venetic Black Metal Front composto da alcune band che fanno post black metal decisamente stronzo, tra quali questi Dispersion da Treviso. Non mi ero accorto della loro esistenza, dovrò andare a studiare il passato, perché quest'ultimo album Monochrome mi è piaciuto assai, devo dire. E da quest'album abbiamo appunto ascoltato il brano Nothing Is Left. Loro erano Dispersion e questo qua che avete ascoltato era Luponair Summerspurgo. Tornerà giovedì prossimo. Nonostante l'estate, nonostante agosto, ce la faremo. Io sento che ce la faremo. Se restiamo uniti, ce la faremo, come disse il capo di Stupatore di Gruppo. E adesso vi lasciamo con Sei Morto, nel Dark Vector Remix dei Sins vs. Me, che è una band, purtroppo non più esistente, composta da Nico Cabañas e Vanessa Asbert, che non esiste proprio più sul pianeta, per questo non esiste più la band, e che erano i fondatori della label Oraculo Records, una label spagnola dedicata a minimal wave, dark wave, eccetera eccetera. Sins vs. Me non esistono più, tuttavia è da poco uscita una pubblicazione che raccoglie dei remix delle cose rimaste in giro tra varie compilation, che si chiama So Far. Da questo album ascoltiamo il brano appunto Sei Morto, Sins vs. Me, nel remix di Dark Vector, a giovedì prossimo con Luponair Summerspurgo. Sei morto. Summersburgo. Mi sono scordato una cosa importantissima che fa molto anni 80-90. Miau.